sanno più di voi che sono mio, che devono portare sempre gli occhiali o le lenti a contatto in alternativa. La vecchiaia però ha questa implicazione fisiologica, che il muscolo dell'occhio, rilasciandosi un po', allunga la distanza focale e quindi predispone alla ipermetropia o presbiopia, che sono due pochino diverse ma simili. Allora, dei miei due occhi, io ho gli occhi molto, cioè l'occhio destro è praticamente cieco, non ci vedo un cazzo quasi, se chiudo gli occhi la mia distanza focale col destro è questa, grosso modo. Quindi questo è fortissimamente miope. Mentre l'occhio sinistro era pochissimo miope, pochissimo, di meno di un decimo, una roba così. Per cui con la vecchiaia è diventato presbite. Quindi adesso io ho un occhio miope e uno presbite. Insomma, no, il che significa che nella normale vita di, diciamo, relazione posso stare senza occhiali, io molti li vedo bene senza occhiali, anche loro che sono più lontani. Anzi, li vedo un po' meglio forse, ma li vedo uguale. Però per leggere o per, soprattutto per il computer dove senza occhiali dovrei stare praticamente a 3 millimetri dal top, facendomi investire da un flusso di elettroni che non parliamo, che non fa bene comunque. Per cui adesso ho dovuto fare degli occhiali nuovi, ho dovuto buttare via i miei vecchi occhiali da mio perché non avevo. E quindi non li porto più, non li ho più. Prima era facile avere gli occhiali tutto il giorno, cazzo, fai un certo giorno, non è che li perdi mai se li hai sempre addosso, no? No, adesso gli occhiali più o meno ci vedono, allora questi però hanno una distanza focale così per cui da lontano non vanno bene questi, quindi li devo guardare così. E però questo vuol dire che li tolgo di metro in continuazione, no? Cosa che non ho ci mai sono fatto anche nella le vita. lenti con la Lo so, ci sono quelle.